Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Sembra davvero scritto per la nostra trasmissione il testo di Goodbye Malinconia, Caparezza featuring Tony Hadley, che apre la nostra puntata. Non perdete la prossima mezz'ora, riprendiamo oggi il lungo viaggio per la Cina, sempre più meta di espatrio dei giovani professionisti italiani. La protagonista della puntata fornirà importanti consigli a coloro che tra voi sono tentati dall'avventura in Estremo Oriente. E non è tutto, in anteprima per Giovani Talenti i nuovi numeri sui flussi dei nostri talenti in fuga ce li fornisce l'anagrafe dell'Aire. Ora però torniamo alla storia della settimana. Questo profumo di possibilità lo sento soprattutto nei giovani cinesi e ovviamente si respira ovunque e questo influenza anche noi occidentali che lavoriamo qui. Chiara Dossi, 35 anni, è responsabile dell'amministrazione e delle risorse umane per Virtuark, studio di architettura a Shanghai. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Edizione straordinaria delle nostre news, interamente dedicata all'aggiornamento sul flusso dei nuovi immigrati italiani all'estero. Ce lo fornisce Emma Vinci Orlando, viceprefetto responsabile dell'Aire. Prima però vi ricordiamo che la disoccupazione giovanile in Italia ha toccato un nuovo record a 29,4%. Ma quanti sono gli italiani all'estero? Sentiamo. Totale iscritti Aire, 4.115.235. Nel fascia di età dai 20 ai 40 anni, 1.174.879. Di questi, la fascia d'età dai 20 ai 40 anni, iscritti Aire dal 90 al 99, 483.825. Dal 2000 al 2010, 691.053. La fascia di età dai 20 ai 40 anni di nuovi iscritti Aire nel 2010 in Europa dà un totale di 22.982. La fascia di età dai 20 ai 40 anni iscritti Aire nel 2010 negli Stati Uniti d'America 2.536. È inoltre presente una statistica sempre redatta dall'Ufficio Informatico Elettorale relativa agli iscritti negli Stati Uniti d'America nel 2010 tra i 20 e i 40 anni ripartiti per regione e sesso per un totale di 1.391 maschi e 1.145 femmine. Altrettanto è stato verificato per l'Europa per un totale di 12.538 maschi e 10.444 femmine. Provenienza geografica. Gli iscritti residenti in Europa e Stati Uniti sono stati raggruppati per regione. Nell'ambito dell'Europa sono stati ripartiti per stato territorio. Sono stati ripartiti invece negli Stati Uniti d'America per sede consolare. Per quello che riguarda le iscrizioni dal 2000 al 2010, abbiamo la Calabria con 33.000 iscritti. Abbiamo la Campania con 30.860 iscritti in quel decennio. Abbiamo ancora la Lombardia con un dato piuttosto consistente che è 35.019 iscritti. Abbiamo ancora rilevante l'emigrazione dalla Sicilia con un dato che è di 49.067 iscritti. Per quello che riguarda invece la suddivisione nel 2010, diciamo, le regioni che sono più consistenti sono ancora la Lombardia, il Lazio, poi c'è la Campania. Paesi e città di destinazione dei nostri giovani? Stati Uniti d'America, Europa, sappiamo che in Spagna ce ne sono veramente tanti. È possibile avere informazioni sui titoli di studio? Abbiamo chiesto, ma non è possibile. Voi avete redatto una guida sull'Aire, ce ne può parlare? La guida offre un'assistenza pratica al cittadino all'atto del passaggio da una condizione anagrafica consolidata come residente in APR a un'altra, cittadino residente all'estero. E per questo scopo sono stati inseriti degli approfondimenti sulle materie del regime fiscale, assistenza sanitaria, trattamento previdenziale, aggiornamenti sul passaporto e le patenti internazionali. In autunno ci sarà allora un nuovo censimento degli italiani all'estero? Sì. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Cina per la prima di una serie di puntate che ogni inizio mese dedicheremo a questa nuova potenza mondiale. Nome: Chiara. Cognome: Tossi. Età: 35. Città di origine: Milano. Studi: Lingue e letterature orientali, Università Ca' Foscari, Venezia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 1999. Per andare dove? A Pechino. Perché? Migliorare il cinese e trovare lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Responsabile di risorse umane in uno studio di architettura. Dove? A Shanghai. Tornerai? Per il momento no. Atmosfere made in China per introdurre la storia di Chiara Dossi, 35enne responsabile dell'amministrazione e delle risorse umane per lo studio Virtuark di Shanghai. Devo ammettere che all'inizio non ho nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di cercare lavoro in Italia, perché pensavo che, avendo studiato cinese, un periodo di residenza in quel paese sarebbe stato necessario. Così hai scritto Chiara in una email a giovanitalenti@radio24.it. Con te oggi la nostra trasmissione avvia un appuntamento mensile con la Cina, attraverso il quale apriremo ogni mese, appunto, una finestra sul paese che registra percentualmente uno dei maggiori flussi di laureati italiani insieme a Lussemburgo ed Emirati Arabi. Abbiamo scelto la tua storia perché dalla tua posizione potrai fornire consigli molto utili ai tuoi coetanei. Una cosa però te la dobbiamo chiedere subito: in una precedente intervista, Chiara, hai detto che l'Italia non ti manca poi tanto. Perché? Intanto perché dopo tutti questi anni qui a Shanghai ormai sono ben integrata nella società, nella vita lavorativa qui, e quindi non sento il bisogno di lasciarla. E poi anche perché qui in Cina comunque ho potuto mettere in pratica quello che ho studiato e come punto di partenza per dimostrare le mie capacità, e non so se in Italia sarebbe lo stesso. Penso che la grande differenza tra qui e l'Italia sia il profumo di possibilità che si respira ovunque, per cui basta ancora determinazione e impegno per ottenere qualche risultato, nonché per vivere una vita professionale soddisfacente. Ci spieghi meglio? Questo profumo di possibilità lo sento soprattutto nei giovani cinesi, e ovviamente si respira ovunque, e questo influenza anche noi occidentali che lavoriamo qui. Lo capisco perché i giovani cinesi si sentono proprio al centro del mondo, e soprattutto i giovani che sono rientrati dopo aver fatto degli studi all'estero, adesso qui vogliono rientrare per far crescere la loro nazione, e questo per me è un sentimento molto positivo. Proprio come in Italia, potremmo dire. Vabbè, Chiara, iniziamo dalla tua storia di studi. Scegli lingue e letterature orientali all'Università Ca' Foscari di Venezia, scelta molto lungimirante. Perché questo percorso? Perché dopo aver fatto liceo classico volevo comunque rimanere nell'ambito letterario, mi piacevano le lingue ma non volevo studiare le solite lingue come inglese e francese per avere un po' più di opportunità lavorative. Siccome ho pensato che la Cina comunque era un paese che si stava sviluppando, ho optato per questa lingua. E già infatti durante gli studi ottieni alcune borse per andare in Estremo Oriente, i primi viaggi a Pechino. Qual è stato il primo impatto con la realtà cinese? Scelte che ho fatto nei miei primi viaggi è stata sempre quella di non venire in città grandi, di non venire a Pechino, a Shanghai, ma di scegliere città più periferiche dove avrei dovuto per forza parlare cinese invece che inglese. E il primo impatto, che è stato 16 anni fa, è stato abbastanza traumatico. Non capivo nulla, non trovavo niente che mi ricordasse l'Italia, poi però ho tenuto duro e dopo una settimana, insomma, ho resistito. Dopo 4 anni ti laurei in corso a pieni voti. Innanzitutto, quale bilancio dai dell'esperienza universitaria nel suo complesso? Buona, non eravamo tantissimi studenti, quindi c'era un rapporto abbastanza diretto con i professori. Però se potessi ritornare indietro, cercherei di trovare un modo per imparare qualcosa di più concreto insieme alla lingua, per esempio con dei risvolti economici, qualcosa del genere. Giustissima osservazione. A quel punto, come abbiamo già anticipato, non ci pensi due volte, parti per la Cina, ma non ti ha proprio preso la curiosità di sperimentare il valore della tua laurea e delle tue conoscenze in Italia? Quantomeno avevi l'impressione che le aziende fossero interessate a un profilo come il tuo? Non ho provato anche perché avevo un po' il timore che la mia laurea non sarebbe stata considerata molto utile senza un'esperienza lavorativa. E poi, siccome sentivo sempre che in Italia nei primi colloqui ai neolaureati si chiedeva sempre hai esperienza lavorativa, e se uno rispondeva no, o non gli si dava la possibilità di farsi questa esperienza, oppure gli veniva offerta ma soltanto gratis. Allora io ho pensato, vado in Cina, mi faccio un po' di esperienza e poi torno. Esatto, con una carta. Anche perché insomma in Italia si pretende che un neolaureato abbia almeno 15 anni di esperienza professionale normalmente. Parti, approdi a Pechino con una borsa di un anno all'Università della Capitale Cinese, nel frattempo però ottieni tramite passaparola un colloquio per una società italiana con sede a Ningbo, 300 km a sud di Shanghai. Com'è stata la selezione, soprattutto per quale posizione? La posizione era di assistente interprete dell'unico tecnico italiano che c'era in questa città, per questa ditta. La selezione è venuta tramite un invio del mio curriculum, che è stato considerato adatto per quel ruolo, anche grazie alle esperienze che avevo avuto prima durante gli anni di università in Cina. Ho fatto un colloquio in inglese, uno in cinese, uno scritto in cinese. E la cosa importante da menzionare è che in quei 2 giorni in cui si è svolto il colloquio mi è stato pagato il volo e l'alloggio, e poi mi è stata fatta una proposta concreta di lavoro. Questo è interessante, un buon caso di selezione fatto in Cina da azienda italiana. Dopo circa un anno ti trasferisci a Shanghai, breve parentesi lavorativa con un'altra azienda italiana, e poi, grazie all'invio di una decina di curricula mirati, per i quali hai sempre ricevuto risposta, ricordiamolo, che si sono risolti in colloqui costruttivi, parole tue, passi a lavorare per una società coreana. Cosa vai a fare? Questa società possedeva e amministrava un grattacielo nella zona commerciale di Shanghai. Cercavano una figura professionale che potesse gestire tre gruppi diversi di persone: il management coreano, la forza lavorativa cinese e i clienti stranieri residenti nel palazzo. Poi alla fine sono diventata responsabile della ditta di sicurezza, dell'impresa di pulizie e di assistenza a questi clienti stranieri. C'è una cultura meritocratica in queste aziende? Tra i cinesi, tra di loro, i sistemi di relazioni e le conoscenze sono più importanti. Però per gli occidentali, che non hanno modo di entrare in questo sistema di relazioni, sicuramente c'è una cultura meritocratica. Perché comunque gli asiatici sono molto pratici. Se sei bravo, hai più valore per me, quindi te lo riconosco. Ovviamente vale anche la situazione inversa, cioè se non vali quanto pensavo, sei fuori. Interessante questo doppio binario. Dopo 3 anni di salto finale, ti ricongiungi con tuo marito architetto e lo affianchi nel suo lavoro. Il vostro studio di architettura si chiama Virtuarc e di cosa ti occupi esattamente? Sono responsabile del personale e in più mi occupo degli aspetti non strettamente legati all'architettura, come le finanze e l'amministrazione. Veniamo ora ai consigli, Chiara, anche perché ti occupi di risorse umane, quindi diamo qualche consiglio ai giovani che vorrebbero venire in Cina. Un'importante premessa, però, secondo la Fondazione Migrantes, a Shanghai gli italiani aumentano di anno in anno, sono soprattutto giovani, restano sempre più a lungo. I residenti italiani più o meno stabili sono oltre 3.000, molti laureati o postdoc. Abbondano, oltre ai manager, avvocati, architetti e ingegneri. In Cina li attrae la possibilità di crescita professionale insieme a responsabilità e ruoli che in Italia arrivano solo in età avanzata. Condividi questo quadro? Sì, è veritiero. Vengono qui a cercare nuove opportunità che forse si trovano precluse in Italia. Come prepararsi al primo impatto di studio o di lavoro in Cina? Per chi desidera studiare, io consiglio sempre di andare in altre città, non quelle più grandi, e allo stesso tempo di avere un grande spirito di adattamento. E per quanto riguarda il lavoro, bisogna sicuramente mantenere una mentalità aperta, senza voler venire qui ad imporre il proprio metodo. Ma è vero che le aziende in Cina si contendono, si rubano letteralmente i professionisti? È vero, perché per alcune posizioni, quando ricerchiamo nuovo personale, di solito mettiamo un annuncio sui website specializzati e nel tempo di capire e selezionare i curriculum che riceviamo, nel tempo di fissare l'intervista, abbiamo già perso parte di questi candidati perché sono già assunti da altre ditte. Ricorda un po' l'Italia. Gli architetti invece? Per gli architetti ci sono sbocchi, però in realtà i progetti, è vero, sono tanti, ma anche c'è pochissimo tempo per realizzarli, quindi serve un grande senso pratico e a volte un po' a discapito della qualità. Domanda di rito, Chiara, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? La vedo un po' troppo rinchiusa su se stessa, che si vanta delle sue tradizionali doti ma non si mette tanto in gioco, e secondo me bisognerebbe recuperare un po' il gusto del lavoro. Proprio per questo il talento deve essere riconosciuto e premiato. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Chiara Dossi, 35enne responsabile dell'amministrazione delle risorse umane per Virtuarc a Shanghai. Ottenuta la laurea in lingue e letterature orientali a Venezia, Chiara è partita immediatamente per la Cina, dove ha iniziato lavorando per una società italiana. Dopo un anno segue il trasferimento a Shanghai per un'azienda coreana che la assume per amministrare il personale e per gestire la clientela. Alla fine di 3 anni di duro lavoro, l'ultimo salto nello studio di architettura del marito, Virtuarc, dove Chiara ha preso in carico l'intera gestione dell'amministrazione e delle risorse umane. Ed è qui con noi Erjan Alberg, che insieme a Laura Aquili ha fondato nel 2006 a Milano lo studio di architettura e design Aquili Alberg. Buon pomeriggio, Erjan. Buongiorno. Erjan, voi avete seguito un percorso contrario rispetto a quello che molti giovani architetti intraprendono. Dopo 7 anni in giro per il mondo, avete scelto nel 2006 di tornare in Italia. La prima domanda è ovviamente perché. Una bella domanda, devo dire. Diciamo che alla nostra età, quando lavori per così tanto tempo all'estero, le scelte sono due: o rimani all'estero e quindi inizi professionalmente la tua strada come libero professionista, quindi intraprendi la libera professione, oppure decidi di tornare in Italia e quindi cerchi di mettere a frutto l'esperienza che hai avuto all'estero. Nel nostro caso, diciamo, quando siamo tornati in Italia ci siamo un attimino scontrati con un mercato dell'architettura italiano che non ci aspettavamo di trovare. Cioè? Diciamo che la nostra idea era quello che, avendo questo bagaglio di 7-8 anni vissuti all'estero, ricordiamo dove? Allora, noi abbiamo lavorato in Olanda per 4 anni e abbiamo lavorato con quelli che sono considerati, diciamo, i big, queste archistar dell'architettura, come Rem Koolhaas o Ben van Berkel o Cas Oosterhuis, che è un vero sperimentatore. E poi abbiamo lavorato a Londra per Zaha Hadid e a Pechino abbiamo iniziato lo studio di Zaha Hadid in Cina, lavorando su un progetto di 1 milione di metri quadri, quindi qualcosa di veramente grande e torniamo impegnativo. Perché tu, tra l'altro, nella presentazione che ci hai inviato per email a giovanitalenti@radio24.it, hai detto: è stata molto molto dura tornare certo. in Italia. Allora spiegaci perché, com'è stato questo impatto? Si pensava che tornando in Italia l'esperienza accumulata all'estero, il modo di lavorare, il modo di intendere l'architettura, il modo di lavorare nel team, il modo di far nascere un progetto per poi vederne la luce, fosse un bagaglio che all'Italia sarebbe interessato. Quello di cui ci siamo accorti è che in Italia piaceva molto l'idea di questo curriculum che avevamo, però nello stesso tempo il modo di lavorare rimaneva ancorato a vecchie logiche. Quindi da una parte c'era l'interesse perché avevamo un curriculum molto interessante, però nello stesso tempo a livello pratico ci rendevamo conto che non c'era la volontà di far uso, diciamo, di sfruttare quello che noi avevamo imparato. Questo è interessante perché noi spesso sottolineiamo il problema degli espatriati, professionisti espatriati, di tornare in Italia e dare il proprio apporto, il proprio know-how. È come se tornando in qualche modo mettessero in discussione delle regole, dei modi di fare che portano da fuori. Certo. E che in qualche modo destabilizzano un sistema, è così, sì. Pazzesco. Diciamo che il problema maggiore è che quello che noi abbiamo imparato, diciamo dal 99 al 2006, lo portiamo in Italia e l'Italia si accorge del valore di quello che noi potremmo portare o quello che abbiamo imparato, direi almeno 5 anni dopo. La politica ha paura del talento, ha affermato il vostro illustre collega Renzo Piano di recente. Per questo ha detto, per i nostri giovani in Italia non c'è lavoro, siete d'accordo? Siamo d'accordo sul fatto che c'è la paura del talento. Pazzesco. Non la metterei solo sulla questione politica, però c'è la paura del talento, perché siamo ancorati alla logica del bisogna fare sempre in un determinato modo, deve essere sempre fatto dalle solite persone, e questo frena completamente il nostro paese. E se sei giovane devi aspettare. E se sei giovane, poi lì bisognerebbe capire in Italia chi è giovane e quando, perché all'estero sei giovane fino a 30 anni, in Italia sei giovane fino a 50. In bocca al lupo Erjan. Grazie. Domanda di rito per Chiara Dossi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? In generale, il fatto di espatriare per chi pensa di costruirsi una nuova carriera o di esplorare nuove opportunità mi sembra consigliabile, però gli direi anche che la Cina forse è adatta più per un'esperienza temporanea, magari di qualche anno, che per un vero trasferimento, perché ho visto tanta gente che è arrivata qui ma si è trovata davanti a un ambiente troppo diverso e spesso difficile. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi proseguiamo la nostra inchiesta regionale sui programmi che favoriscono il rientro o la circolazione dei talenti. Ci concentriamo sul settore della ricerca. La Regione Lombardia, in accordo con il National Institutes of Health americano, ha promosso il programma Research Career Transition Award, dedicato ai giovani ricercatori. Alberto Cavalli, sottosegretario all'Università e alla Ricerca, ce ne spiega gli scopi. Consentire ai giovani talenti di prepararsi anche all'estero, ma comunque di rientrare in territorio lombardo. Nel recente incontro con James Harrington, il direttore di questo National Institutes of Health, che è una rete di istituti e centri di ricerca e clinica negli Stati Uniti d'America, abbiamo verificato lo stato dei fatti. Regione Lombardia e il Ministero della Salute e dei servizi alla persona degli Stati Uniti d'America hanno un programma che ci ha consentito in questi anni di mandare 8 ricercatori lombardi in terra americana. La rimangono 2-3 anni con uno stipendio non disprezzabile, $50,000 all'anno, che sono circa €40,000 per noi, e dopo questo periodo di ricerca ritornano in uno dei centri di ricerca lombardi per altri 2-3 anni. Insomma, un programma di 5 anni che prevede la ricerca negli Stati Uniti d'America e il ritorno in terra lombarda. Quali altre azioni la Regione Lombardia ha in campo su questo? Posso dire dell'accordo che abbiamo col Consiglio Nazionale delle Ricerche, economicamente molto importante perché sono 20 più 20 milioni di euro per progetti di ricerca nel campo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ancora della salute, particolarmente delle nanoscienze e delle applicazioni biomediche, e poi del manifatturiero, dell'agroalimentare. Questo è un accordo che ci ha consentito di mettere in campo più di 140 giovani ricercatori lombardi, e crediamo che buona parte di questi rimarrà in pianta stabile presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Regione Lombardia crede nei talenti lombardi e dedica importanti iniziative perché possano crescere professionalmente e rimanere o tornare in terra lombarda.